Benvenuti, siete sintonizzati e sintonizzate sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la modulazione di frequenza di questa radio da oltre 39 anni, quasi 40. Questa è Tracce di Cinema, stiamo iniziando la trasmissione di oggi, La paura quasi corre. Non ti riconosco col cappello. Tutta coperta, ho freddo, ho la febbre. La paura oggi la fa da padrona, corre sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ascoltiamo e parleremo di alcuni dei più bei film di John Carpenter e ascolteremo alcuni dei brani tratti dalle colonne sonore, anche proprio composte da lui. Ne parleremo con un ospite importante, uno dei tanti ultimamente che Federico, che grazie a Federico frequentano questa radio. Mi piace presentarlo così. Però poi raccontiamo pure com'è stato l'incontro con te, insomma. Certo. Elettro Joyce Balena, e già chi ha un po' la mia età dovrebbe capire di chi sto parlando, e ve lo presento, vi dico chi è con noi: Filippo Gatti. Grazie ciao, di ciao essere venuto qua a Radio Onda Rossa e di essere con noi a Tracce di Cinema. Filippo, benvenuto. Grazie a voi. Tra l'altro sei stato tu che hai scelto l'artista di oggi al cui dedichiamo una monotematica. Sì, è il primo che mi è venuto in mente quando lui mi ha detto una colonna sonora. Io ho detto John Carpenter. Appena, tra l'altro, credo che abbia fatto recentemente dei concerti in Italia. Credo che abbia. Sì, all'Auditorium. Sta facendo un giro di concerti perché è sempre più popolare come musicista. Poco tempo fa all'Auditorium, adesso non mi ricordo se l'anno scorso, insomma, sì, entro ultimamente. In quest'anno, però io non lo ricordavo. Però a me piace tantissimo. La scelta è stata ampia, sì, perché sì. Partiamo da Distratto. Quello che in italiano è conosciuto come Distretto 13, Le Brigate della Morte, e arriviamo credo fino a Essi Vivono. Sì, ce l'abbiamo messi praticamente tutti, quelli più belli, insomma, sì, quelli più significativi anche dal punto di vista proprio musicale, secondo me, perché poi alla fine la musica poi dei film così, un po' di genere così, thriller, film paurosi, ecco, sono anche un po' spesso magari un po' monotone, sì, no? Minimali, se vogliamo. Minimali. Invece in questo caso Carpenter, forse perché le ha anche composte lui, essendo lui già da piccolissimo musicista, poi magari racconteremo qualcosa della sua biografia, un grande appassionato di musica, è riuscito invece a interpretare anche poi delle scene proprio attraverso la musica, e quindi a creare delle musiche un po' diverse rispetto a quello che è stato poi fatto per altri film di genere. Non dimentichiamo che poi per una sua colonna sonora di cui ha ascolteremo ha partecipato anche Ennio Morricone, che esatto. Insomma è l'unica colonna sonora in cui lui non ha usato la propria musica, forse ha fatto anche bene, perché Ennio Morricone è il numero uno. Cioè, sta bene anche però da solo. Per esempio Brigate della Morte, quel film lì, ma anche Essi Vivono, quelli che avete citato, in realtà sono film horror solamente a un primo strato, perché sì. Sono dei film profondamente politici. Cioè, sì, John è vero. Carpenter è un autore Essi Vivono politico, è proprio politicissimo. È una specie di cowboy rock and roll anarchico americano che ha usato, diciamo, il genere horror per poter fare dei film indipendenti a basso costo, di successo, e dire quello che voleva dire lui. Sì, e fare anche delle denunce, anche se poi alla fine è un autore molto, non voglio dire maschilista, ma insomma un po' maschile. No, ecco. Però su questo, Ottavia, guarda, non sono d'accordo, perché la maggior parte dei suoi personaggi più forti sono proprio personaggi femminili, per esempio in The Fog o in Halloween. Sono delle donne che vengono considerate delle bonazze da tutti quanti, cioè che all'inizio sono viste come delle donne buone, anche formose, eccetera, che tutti prendono in giro, ma che poi alla fine del film sono quelle che salvano la situazione. E anche in quello su Marte, adesso non ricordo il titolo preciso, uno di Vampiri, sì, su Marte, una cosa del genere, e lì ci sta una figura femminile fondamentale. Sono tutte donne che vengono un po' all'inizio sottovalutate perché sono buone, scusate se uso questa espressione, e invece poi sono forti e risolvono le situazioni. Però certo, è chiaro, nel è un cinema molto maschile, nel cliché, ecco, dell'horror la protagonista, per motivi proprio commerciali, strutturali, deve essere una donna attraente, perché è un modo, è un classico, cliché. Dell'horror, ma lui lo usa in un modo rivoluzionario. No, ma poi insomma è una persona di spessore, non solo perché è un bravo regista, ma perché è una persona molto sensibile a molti temi sociali, e quindi insomma ci piace anche che tu ce l'abbia proposto anche per questo, perché non è proprio un regista che parla di un genere e fa un genere che fa cassetta e fa pubblico, fa muovere il mercato per quello, ma anche perché comunque lo fa muovere comunque facendo dei film che hanno comunque dei messaggi non sempre subliminali, anche molto chiari, espliciti. Lui ha usato il mercato per dire quello che voleva e loro era utile al tempo, nel senso era una cosa che tu pigliavi i soldi perché ci mettevi appunto una donna bella, un po' di mostri, un po' di suspense e comunque qualche produzione la tiravi fuori, un po' di soldi tiravi fuori per fare la cassetta anche se non passavi nel mainstream. Va bene, tiro dai. Fuori anche un aneddoto perché io da adolescente ero fissato con i Doors, Jim Morrison, e andando a leggere un'intervista a Jim Morrison leggo che la firma del giornalista è John Carpenter, perché è stato giornalista musicale. Sì. Io invece leggendo la sua biografia ho scoperto che lui aveva un gruppetto musicale quando era pischello, e dice che insomma poi sono stati risentiti vari bootleg di questo gruppo, e dice che la voce era molto simile a quella di Jim Morrison. Bisognerebbe cercarli. È un rocchettaro, anziché fare, diciamo, ha capito che forse come musicista in sé non era bravo come regista, però in realtà pure su quello forse non è vero, perché poi a distanza di tutti questi anni, perché poi le cose si vedono alla fine. A distanza di anni le sue colonne sonore cominciano a diventare sempre più popolari, tant'è che ha dovuto appunto fare una tournée mondiale, hanno ristampato i dischi. Ha avuto un grande successo. Io non ci Dai, sono andato. Cominciamo con l'inizio. Il primo, Distretto 3, da Dai, Distretto 13. '76 era il tema portante di Distretto 13, il film probabilmente quello che mi ha fatto conoscere John Carpenter. Sì. E dicevi che qui lui suona le tastiere. Sì, lui secondo me molti di questi pezzi sono tastiere e basso elettrico, sì, sintetizzatori, sì, cose di questo tipo. Però in questa colonna sonora ci sono anche dei pezzi molto funky, perché ci sono delle versioni funky di questo tema che anche sono bellissime, perché il concetto era appunto ambientato nella periferia di Los Angeles, nei luoghi dove poi ci sono state fino ad oggi ancora le rivolte violente che abbiamo visto continuamente, ed era l'idea di questo distretto di polizia che doveva essere dismesso, e quindi non c'era rimasto più nessuno a guardarlo se non questo poliziotto di colore che negli anni 70 era già messo in una posizione difficile lì e anche contro i suoi stessi colleghi, con persone che c'erano lì intorno nel quartiere. E c'è un omicidio che avviene, per cui un personaggio si rifugia nel distretto, ma nel distretto non c'è altro che lui, è un condannato a morte, e questi vengono circondati da questi banditi, diciamo, che li vogliono uccidere. È un film straordinariamente geniale, con pochissimi mezzi, ambientato quasi tutto dentro una stanza. Quasi tutti i film di John Carpenter sono a bassissimo costo. Poi mano a mano che andiamo avanti ho trovato delle piccole cose da raccontarvi carine. Invece di questo vi posso dire che Carpenter si ritagliò un cameo nel ruolo di uno dei membri della banda che assale le finestre. Sì, si vede per un attimo. E che l'indirizzo del distretto era proprio quello di casa di Carpenter all'epoca. Ah, questo non lo sapevo, questo lo sapevo. Perché il titolo è proprio Distretto 13, 13 Present, nuovo come film, non era ancora un horror, era un thriller sotto certi aspetti, era un thriller molto estremo. Sì, super claustrofobico. Eppure la colonna sonora era bella ossessiva, con questi sintetizzatori, no? Che lui ripetevano. Ma lui diceva che prima di mettere la musica le scene non facevano paura. Cioè lui c'ha un uso della musica eccezionale, perché ci sono delle scene che sono magari solo delle inquadrature di una finestra oppure di una strada buia, e tu vedi questa immagine di questa strada buia e di per sé non è niente, però quando ci metti questa musica che abbiamo sentito sei terrorizzato, il popcorn già vola, sta per succedere qualcosa. Bene, continuiamo con, sempre con fine anni 70, un film importante che è Halloween, che ha segnato poi l'inizio di tutta una saga, perché di Halloween ne sono stati fatti vari capitoli, anche se John Carpenter ha firmato solo il primo. Come dicevo, tema portante di Halloween, un film del 1978, due anni dopo il Distretto 13, che non è il primo film, perché il primo era Dark Star, ma non... Non ne parlo nemmeno, perché sono talmente in fissa con quel film che se ne inizio a parlare e finita la trasmissione. E dico, su Dark Star, andatemela a cercare, perché è un film veramente... È la versione rock and roll di 2001 di Odissea nello spazio. Vedi, però non abbiamo cercato le musiche di Dark Star. Infatti, pure io mentre mi insomma mi informavo sulla biografia di su quel primo film le musiche non sono le sue, cioè credo che essendo stato il primo invece film invece io so proprio che sono le sue. Sono proprio scritte da lui, infatti me l'ero segnato. Dark Star 1974 costò solo $60,000, anche perché Carpet scrisse la musica. Ah, ok, perfetto. No, perché allora lì l'ho guardato anche con meno, perché è un film talmente filosofico. Praticamente è un'astronave, questi rimangono intrappolati in questa astronave con un computer impazzito. È la stessa storia di 2001, però fatta molto anche lì con poco. Magari mentre stiamo sentendo la prossima traccia, ci andiamo a cercare una traccetta di Dark Star. Che dici, Fede? Sì, poi comunque sulla pagina che noi quotidianamente arricchiamo, noi, possiamo... tu. Non faccio nulla, le possiamo anche mettere lì. Mi vanto della pagina Facebook non facendo nulla. No, invece di questo film, a proposito del Halloween. Basso budget, no, di cosa? Dei soliti bassi budget dei film di Carpenter. Sì, perché quello è un punto, hai ragione, che è un punto che è uno dei punti per cui io l'ho sempre avuto come mito, perché comunque secondo me la libertà di un artista si compra attraverso un saggio utilizzo dei soldi. Giusto. E se tu sei bravo a fare delle cose fighe con pochi soldi, io personalmente su questo sono diventato bravissimo, perché non me li danno quasi mai. Penso che sia una buona lezione in generale. No, sì, infatti è proprio così, è proprio l'idea di John Carpenter, che insomma ha lavorato sempre insomma sul proprio sull'unghia del quattrino, e infatti limitò l'interessamento dei nomi famosi per quanto riguarda questo film. Prese una giovanissima e sconosciuta Jamie Lee Curtis, che sì, poi ha iniziato la figlia di Tony Curtis e di famosissima Lee. Quella di Psycho, sì, Jennifer Lee era nel giro, cioè nel sì. senso era una ragazza giovane già di quel giro lì, e la lanciò con questo film che adesso vi dico, venne pagata $8,000 mentre Nick Castle $25 al giorno, e Pleasance, che invece era diciamo sì, quello più importante, venne pagato $20,000 in tutto il film. Poi tutti gli attori indossano i propri vestiti, perché non c'erano abbastanza soldi per acquistare abiti di scena. Fantastico. E dal momento che il film fu girato in primavera, i tecnici dovettero comprare delle foglie di carta da un decoratore e colorarle con degli spray con i toni dell'autunno, e poi ad ogni scena le dovevano togliere accuratamente senza rovinarle, per poi rimetterle nella scena successiva. Questa è la chiave di fare dei film belli, guarda, secondo per me. Dire, no? Che poi quando uno è bravo alla sì. fine e poi tutti... lui si inventò una cosa che poi anche nel genere horror, diciamo, lui ebbe talmente successo con questo horror che poi continuò a fare gli horror. I film prima erano una via di mezzo, questa cosa della maschera del cattivo in questo film, questo John Myers che c'ha questa maschera fissa senza espressione. Anche quello è un geniale espediente di basso budget, nel senso che tu, utilizzando semplicemente questa maschera che non ha espressione bianca e quindi fa più paura, perché questo arriva con questa maschera tremenda, lui che poi è stata copiata da decine di horror successivamente fino a Scream di Wes Craven, che è un suo, diciamo, era perché è morto, un suo discepolo, diciamo. È un'idea geniale, cioè tu fai un cattivo, non spendi niente, gli metti solo una maschera bianca, lo sì, puoi muovere. Infatti piano. Pensa Filippo che il volto di Michael Myers, che non si vede mai, no? Si vede soltanto in una piccolissima scena, piccolissima, in un momento proprio pochi secondi, ed è il volto di uno qualsiasi, di un ragazzo biondo che è stato proprio preso, sì, che caso. Camminava per la strada, hanno detto vieni qua, faccia sto Jack, vattene. non faceva proprio parte del film, della troupe, di niente, è stato proprio preso così. Anche questo non lo sapevo. E, e il suo volto, questo giovane biondo, si vede a un certo punto per pochi secondi, no? È lui, è un completo estraneo. È uno che camminava per strada. Ho trovato, ho avuto la folgorazione, Jim Morrison, John Carpenter. Ah. Halloween, c'è cioè l'uomo con la maschera in The End dei Doors, c'è cioè l'assassino che prende la maschera dai ritratti di famiglia, scende le scale, fa visita alla stanza della sorella, va nella stanza dei genitori, dice madre voglio amarti, padre voglio ucciderti, c'è l'assassino in Halloween che fa tutto questo tragitto dentro casa con la maschera. Stiamo facendo uso di droghe, vi assicuro. Abbiamo bevuto solo un bicchierino. Siamo tutti lucidi, no, Federico, così e così, non lo so che, io so che anche che ha fatto prima di venire qui. Anche Francis Ford Coppola conosceva Jim Morrison perché avevano studiato insieme a scuola. Sì, alla UCLA. C'era una commissione tra questi artisti qua in quegli anni lì a Los Angeles. Senti Filippo, invece per quanto riguarda la colonna sonora, tu sei un musicista e quindi ci spiegherai. Mm-hmm. Adesso è un film privo di colonna sonora sinfonica, no? La partitura consiste in una melodia di pianoforte suonata al ritmo di 5/4 e composta dallo stesso John Carpenter. Esatto. E un critico, un certo James Berardinelli, che magari è anche famoso, io non lo conosco, però ha detto che è una partitura unica nella sua qualità e che insomma lui è stato, in una di queste interviste che io ho letto, mi è sembrato di capire, era in inglese quindi forse magari mi è sfuggito qualcosa, era molto risentito che non avesse mai che non avesse vinto un premio importante. Beh, ecco. Perché comunque diciamo, a parte questa colonna sonora, diciamo, secondo me assimila, se l'abbiamo sentita, la cosa straordinaria è proprio che lui crea un effetto per lo stesso discorso delle foglie, della maschera, cioè lui usa tre elementi molto essenziali. Siamo negli anni 70 e l'elettronica ovviamente esisteva già da tanti anni ed era sviluppatissima, però è un uso a metà strada tra elettronica e acustica che comunque era abbastanza avanzato, cioè in realtà nella semplicità di quello che ascoltiamo aver fatto un prodotto del genere significava conoscere molto bene la musica, usare molto bene la musica con pochi elementi, che è più difficile, no, che spendere e espandere. E quindi sono d'accordo che questa colonna sonora sia molto importante, assomiglia, comunque è avvicinabile, però io non so dire esattamente chi c'era prima e chi c'era dopo, tra quella dell'esorcista che era stato usato questo tema di Mike Oldfield, che era stato estrapolato dal disco di Mike Oldfield e usato per l'esorcista, e quella di che poi ha fatto il grande Simonetti che per Profondo Rosso, Profondo Rosso. Di Dario Argento, Goblin. Che sono tre colonne sonore che se tu le senti ti accorgi che sono veramente tutte e tre, giocano sullo stesso tipo di composizione, lo stesso tipo di tensione, solo che quella di Mike Oldfield era stata fatta, era stata presa da Tubular Bells, un'intuizione del regista, come si chiama, fortissimo, William Friedkin. Sì. Che ha vinto anche l'Oscar. Sì. Invece quella di Simonetti secondo me è leggermente posteriore, ma anche perché l'esorcista è del 73, Profondo Rosso è del 74. No, allora è il contrario, mi sto sbagliando. Allora è stato Carpenter probabilmente che si è ispirato a quella cosa lì. Però erano amici, insomma, Dario Argento e Carpenter sono amici da sempre, si conoscono, hanno lo stesso tipo di atteggiamento intellettualoide nei confronti dell'horror. E chissà quindi quante cose hanno condiviso anche magari scrivendo i film, parlandosi. Certo, no, ma quello è il bello, perché sicuro, quando si conosce, si collabora, è giusto che si prendano le idee di qua e di là. Sì, sì. Io sto procedendo in ordine cronologico, per cui adesso arriviamo a The Fog, che è del 1980. Ci sto. E questo è il tema portante dal film The Fog 1980, visto che ne stavamo parlando poco fa fuori onda, e ricordiamo anche che stamattina all'alba c'è stato lo sgombero del centro sociale cortocircuito qua a Roma, e alle 17, quindi alle 5, tra un'ora e mezza, è stata indetta un'assemblea lì per decidere il da farsi. Sì, siete ancora all'ascolto di Tracce di Cinema, sono le 15.30, siete con noi, e con noi è Filippo Gatti, con il quale stiamo parlando di John Carpenter e delle sue musiche, delle sue colonne sonore. Questo era il tema di The Fog, 1980. Sì, 1980, secondo film del regista interpretato da Jamie Lee Curtis. Anche qui Carpenter si ritaglia un piccolo cameo e appare in varie sequenze del film interpretando il sacrestano padre Malonna. Sì, perché c'è il prete in questo film, c'è il prete. Anche questo in realtà c'ha un senso un po' politico, perché è sul fatto che, diciamo, è come se ragionasse sul fatto che gli Stati Uniti l'economia degli Stati Uniti è basata su un eccidio. Cioè, era stato fatto un eccidio e da quell'eccidio tutti stavano bene, perché c'era, e questo film parla, diciamo, in maniera molto, diciamo, giocosa sulla vendetta che quelli che erano stati uccisi poi fanno nei confronti di quelli che stanno bene là. Però poi c'è il prete, sì, effettivamente c'è. E il Carpenter affermò di questo film che questo non era il migliore dei film da lui girati. Infatti, a causa, vero, delle scene rigirate e della produzione a basso costo, che ahimè torna anche in questo sì, film. No, ma infatti questo è un film molto divertente, ma non è eccellente come gli altri. Cioè, è molto divertente, io l'ho visto. Però un grande critico, David Denby del New York Magazine, ha definito Fog come il trionfo del film a basso costo, dove anche gli episodi più spaventosi sono straordinariamente belli. E quindi, insomma, anche Carpenter qua. No, ma lo è, basta mettere un po' di fumo, macchina del fumo che entra la nebbia da sotto una porta, e sta musica che abbiamo sentito, e già hai vinto. Comunque è stato girato anche questo in 30 giorni, cioè pure questa è un'altra caratteristica di Carpenter, velocissimo. Buona la prima. Sì, scuola Roger Corman. Senti, invece Filippo, Fede, vogliamo parlare un po' con Filippo? Sì, perché Filippo, prima di arrivare al film che lo ha consacrato a livello internazionale, 1997, Fuga da New York, io mi concentrerei un attimo su Filippo. Filippo, che io generalmente pensavo... che sono io stato consacrato. Infatti dicevo, ma come, ma è sfuggita sta cosa? Sì, ma perché, quando? No, perché sì, in Fuga da New York io ero uno dei bambini piccoli che stavano in una delle macchine che scappava dalla città, e c'è questa inquadratura di 3 secondi qui mi vedo io piccolo, poi sono tornato in Italia. Allora, invece, rispetto a The Fog, arriviamo agli anni 90. Io, Filippo, ti ho conosciuto come anima degli Electro Joys, che ho amato come gruppo per diverse loro tracce che tuttora abbiamo sul cellulare, abbiamo cantato a squarciagola in macchina quest'estate. Che abbiamo cantato, è vero, a squarciagola quest'estate. Allora, raccontaci un po' del tuo percorso, Filippo. Cioè, quanti secondi ho? Dunque, io ho fatto questo gruppo Electro Joys, poi dopo ho fatto un disco solista molto coraggioso nel 2003, con il quale ho litigato con tutte le case discografiche nazionali e sono sparito nel nulla, e dopo un po' ho cominciato a fare il produttore. Ho lavorato con alcuni artisti che amo molto, come Riccardo Sinigalli, Bobbo Rondelli e altri. Poi ho rifatto un disco interlocutorio nel 2012 e negli ultimi anni vivo in Maremma, dove ho uno studio nel quale tentiamo di fare appunto dischi con pochi soldi in 4 giorni, che vengono molto belli, alla John Carpenter, solo, diciamo, allegri. Non allegri magari, però non così dark, e sono abbastanza felice di quello che faccio. Sto facendo un sacco di cose belle. Ora sto lavorando, abbiamo fatto un progetto con i ragazzi di una scuola di musica che si chiama Musica Incontro, abbiamo prodotto insieme a una squadra di autori e di musicisti un lavoro con questi 36 ragazzi giovanissimi, fantastici, per fare una specie di operazione completamente opposta eticamente ad Amici, X Factor, perché non c'è nessuno ancora che ha capito che bisogna fare qualcosa, e quindi sono abbastanza felice, sto bene. Senti Filippo, però L'esperienza ElectroJazz, allora, tornando proprio alle origini, come nasceva? Eravate un gruppo di amici che vi siete messi a suonare, oppure come è andata? Sì, diciamo, il gruppo ha cambiato più spesso spesso formazione, in realtà, perché il primo disco era stato fatto con alcuni musicisti che poi non l'hanno registrato, perché uno è partito per la Cina, se ci sente lo saluto perché magari sta su e vive in Cina da tanti anni, e poi dopo è ricambiata la formazione su Illumina. È un gruppo di amici, fondamentalmente. Era un progetto che era nato quando io vivevo in Scozia, quando ero più giovane sono tornato in Italia, ho fondato questo gruppo con l'idea di fare un rock molto ispirato alla scrittura della poetica della lingua italiana, quindi tentare di far quadrare la lingua italiana e la scrittura nella musica rock di quegli anni. Quindi sono tre dischi molto diversi, il primo molto diciamo più vicino a quello che potevano essere i Pixies o quelli gruppi di quel tipo, il secondo più rock and roll, registrato live già nello studio in Maremma, dove poi dal 97, e il terzo invece è un po' più sperimentale, un po' più strano, che si chiama Illumina. E poi ho chiuso quel progetto e ho continuato ad andare avanti da solo. Ero contento di quei tre dischi, li adoro. Il gruppo non esisteva quasi più perché si era smembrato, però sono molto felice dei dischi, cioè, anche se non sono reperibili per ora nel mercato, perché sono ancora sospesi in una specie di limbo discografico, però in realtà, grazie a Dio, la gente se li può scaricare gratuitamente, e sono molto felice che tantissime persone se li riscaricano ancora oggi, finché poi non saranno di nuovo editi, ecco, mi auguro. E arriviamo dagli anni 90 a, credo, un paio d'anni fa, Via dei Serpenti. ci siamo conosciuti tutti e tre, perché è perché io ci ho avuto l'onore, allora adesso fammi dire, fammelo dire. Sto Ottavia che da ore sta a fare dei segni tipo che palle. Lo so perché, no, perché però è un momento. No, ci siamo incontrati tutti e tre lì quando è stata messa la targa. Ma io della quale io non sono affatto d'accordo. Comunque, per Mario Monicelli, per la quale non sono stata per niente d'accordo. Perché te non eri stata consultata per No, io non, a parte non sono, vengo mai consultata su niente, perché sono sempre in disaccordo su tutto. Ma comunque, e allora sei proprio la perfetta a proposito di quella cosa, proprio non ero proprio a conoscenza, e comunque sono stata sempre contro, e l'ho anche detto durante la presentazione della cosa. Sì, certo, quel poco che posso a distanza. Beh, comunque insomma sì, ci siamo incontrati, però diciamo che al di là dell'occasione della targa, io voglio dire che sono veramente, considero Mario Monicelli uno dei pochi grandi intellettuali artisti di riferimento da sempre, quindi per me quando mi è stato detto che c'era questa cosa e si doveva fare una manifestazione proprio popolare con le canzoni popolari per strada, con la chitarra per strada, mi sembrava cosa bella. È stato il momento più bello, infatti. Sono venuto proprio con un orgoglio incredibile, è una cosa di cui sono molto orgoglioso. Anche noi, anche io sono stata orgogliosa. Anche perché questo ho fatto riferimento a questo episodio, perché poi adesso. Però c'era Veltroni, purtroppo. Avevo detto tutte le cose tranquille. C'erano tanti che purtroppo c'erano. Perché ho ricordato questo episodio? Perché c'è anche un tuo progetto in stand by, diciamo, che riguarda la figura di Mario. Diciamo che abbiamo fatto una cosa molto bella che si chiama Maremma Orchestra tre anni e mezzo fa, cioè abbiamo messo insieme lì nel territorio della Maremma una specie di mega orchestra di 120 persone, tra orchestra di musica classica ufficiale di Lucca e Grosseto e un coro, la Corale Puccini, dei Briganti di Maremma. Cioè ho messo insieme una serie di realtà completamente opposte, tra cui e secondo me era una cosa molto monicelliana, cioè nel senso, e secondo anche le altre persone con le quali abbiamo pensato questo progetto, cioè di mettere insieme il coro cattolico con i raffinati dell'orchestra, quelli dei canti popolari, dei musicisti rock della zona. Abbiamo fatto una specie di enorme armata Brancaleone, eseguendo anche l'armata Brancaleone, con l'obiettivo di creare una connessione tra i musicisti della Maremma, che normalmente erano, come quasi tutta Italia, separati. Cioè, il problema in Italia è che ci sta poco dialogo tra musicisti dei vari settori, cioè si incontrano poco sul palco musicisti di settori diversi, e questo non arricchisce la musica italiana. E quindi noi lì abbiamo fatto una specie di progetto così sperimentale per metterli insieme, e l'idea era anche di produrre un documentario veramente sgangherato di come noi abbiamo fatto questa enorme operazione, che poi è culminata con un concerto con quasi 2000 persone, bellissimo, lì nel territorio, che è stato importante per il territorio, solo che non sono riuscito ancora a ultimare, diciamo, questa cosa. Rischia di entrare nel novero delle operazioni tipo quelle di Terry Gilliam, che vuole fare Don Chisciotte, come Orson Welles voleva fare Don Chisciotte, non ci riesce mai a farlo. Quindi forse alla fine questo materiale uscirà, non lo so, dei frammenti usciranno. Uscirà un'intervista di io che dico che ho fatto questo materiale. Vabbè, però dai, ecco, l'abbiamo fatto veramente col cuore, perché diciamo è solo l'inizio della fase in cui gli insegnamenti di questo artista noi li dobbiamo prendere in considerazione, siamo solo all'inizio. Penso che poi lui era un grande amante della musica, quindi sicuramente l'avrebbe appoggiata come idea. E io ti auguro che insomma vada avanti, Ma li portiamo avanti. Questi dei ragazzi che sto facendo, io da anni sto facendo questi progetti collettivi abbastanza pazzi, però sono belli. Questa di questi ragazzi di questa scuola di musica è diciamo molto interessante, perché lì stiamo agendo proprio sul territorio che ha a che fare con l'educazione, con la formazione, che è il contrario di quello che viene fatto da questi programmi. Sono programmi che sfruttano l'immagine di ragazzi giovani per vendere pubblicità e distruggendo la psiche e la vita. Mm-hmm. E invece noi stiamo facendo il contrario, stiamo tentando di andare in una scuola dove ci sono dei ragazzi che hanno scelto di fare i musicisti, e noi li aiutiamo a lavorare insieme, al di là del talento individuale, al di là di quello che suona meglio o peggio, mettendoli sempre tutti alla pari e facendoli lavorare insieme per imparare a stare bene insieme, al di là dell'effetto musicale. Sì. E questa cosa qui poi ha incredibilmente un effetto musicale enorme, perché se tu sei motivato e se sei sincero, la musica viene meglio, insomma. È vero, è vero, è vero, nella collettività tutto è migliore. E continuiamo con la musica, anche perché poi io dopo, che magari parliamo anche un attimo di questo prossimo film e della musica che insomma stiamo per le tracce che stiamo per suonare, volevo parlare un attimo con Filippo di un progetto teatrale, Federico, che Filippo sta curando. Sì, e quindi insomma. Beh, continuiamo ad attraversare il tuo incrociare il cinema, perché mettiamo adesso la musica di un documentario del quale hai curato la colonna sonora, non da solo, sì, insieme ad altre persone. È un Earthquake 1968, sì, sì, sì, che parla del post terremoto di Gibellina in Sicilia, e questa è la traccia che si intitola Nostalgia. Nostalgia, Filippo Gatti, dal documentario Earthquake 68, Gente di Gibellina, un documentario del 2008 di Emanuele Svezia, Filippo. Sì, dico solo due parole. Praticamente questo era questo paese, Gibellina, distrutto al terremoto negli anni 80, credo, è stato... non mi ricordo l'anno della... Però comunque, sì. No, comunque è stato poi ricostruito con un sindaco abbastanza pazzo attraverso la creazione di una serie di opere di arte contemporanea. Esatto. Ci sono stato. Lui, la famosissimo Cretto di Burri, che cioè lo stesso Burri fece una praticamente nel luogo dove la città era stata rasa al suolo, costruì una gigantesca forma, diciamo, scultorea al posto della città. Però questa cosa, che era da un lato geniale, che era stata fatta da questo sindaco, aveva creato un dissidio con gli abitanti della città ricostruita, perché loro non si riconoscevano con la città che era stata distrutta, e anche queste opere erano state viste male dagli abitanti. Quindi Emanuele Svezia e con Francesco Medosi, che sono due ragazzi fantastici che lavorano nel cinema, hanno pensato di fare come documentario, di documentare il loro tentativo di convincere l'intera popolazione di Gibellina a riconciliarsi con il Cretto di Burri e fare una fotografia sul Cretto di Burri. Quindi il documentario è la storia burocratica di come loro andavano dal sindaco, dalle persone nei bar, cioè per convincerli, di spiegargli cosa era successo, perché non sfruttavano, diciamo, e va bene che non avevano questa memoria, però almeno potevano utilizzare turisticamente o in qualche modo questa cosa che ormai era successa. Mi piace tantissimo questa idea, perché mi piacciono questi documentari che agiscono nella realtà, cioè che cambiano la realtà dove agiscono, e che iniziano senza sapere dove vanno a finire. Ed è stato molto commovente vedere poi che alla fine loro riescono a portare gran parte del paese su questo cretto. Il documentario poi è andato al Festival di Torino, eccetera, e noi, quando insieme a Renato Cionfrini, che è uno dei musicisti a Roma più secondo me importanti nella musica sperimentale e di ricerca, Cristiano De Fabrizis e Francesco Gatti, che è mio fratello, abbiamo fatto questa musica che teneva insieme in un unico livello sia questi livelli di musica contemporanea sia le poliritmie, cioè come se fosse una specie di tentativo quasi impossibile, però comunque di cuore, di mettere insieme varie anime, da quella melodica popolare fino a quella iper sperimentale. E questa traccia è una di queste tracce qui che avete sentito, penso che lo si capisse abbastanza bene, sì, dallo spaesamento che genera. Però io sono molto orgoglioso di questa colonna sonora, è una cosa bellissima. E arriviamo al progetto teatrale, allo spettacolo che andrà in scena a novembre. Sì, allora sono molto felice di parlarne anche di questo. Avremo modo poi di parlarne quando andrà in scena. Beh, questo mi fa molto piacere. Diciamo che un po' di tempo fa, insieme a Arianna Gaudio, che è un'attrice secondo me fantastica, e che in qualche modo anche la conosco molto bene perché l'ho sposata una ventina d'anni fa. Ed è stata anche nostra ospite al Radio Teatro. Ah, ecco, questo non me lo ricordavo. Abbiamo iniziato a schedare una sua idea che abbiamo iniziato a scrivere un monologo sull'idea che una persona che ha messo una pagina Facebook per scherzo su un movimento politico si ritrovi improvvisamente vincitrice delle elezioni nazionali perché la massoneria l'ha candidata a sua insaputa, estrapolandole una firma con un microonde in omaggio, e l'ha fatta diventare improvvisamente vincitrice delle elezioni. E questa è un monologo che racconta la prima giornata o la prima mattinata in cui questa persona si sveglia e scopre di essere la persona più importante del paese, da cittadino comune. Ed è una satira che io comunque stavo tentando di indirizzare sempre di più a questo enorme dubbio che ho nei confronti della semplificazione, che basti prendere un cittadino per fare un buon politico, considerando che un cittadino, quando si candida alle elezioni, diventa un politico, con la differenza che di un politico sai che cosa aveva fatto prima e con chi era, mentre un cittadino no, se era un nazista a casa le foto di Hitler tu non lo sai, sai solo che non è stato mai arrestato fino a quel momento. Cioè, mi sembra un po' riduttiva questo pensiero, e sono preoccupato di questo pensiero, e si vede dal fatto che a Roma il primo gesto che hanno fatto la nuova amministrazione è stato quello di sgomberare dei senza tetto dal Lungotevere, vicino a dove io ho casa. Senza tetto non solo, che io molti li conoscevo e sono persone veramente per bene, che grazie a loro lì quel posto è sicuro, perché se fosse stato per la polizia non sarebbe stato. Diciamo che la priorità novità di questa nuova giunta sono gli sgomberi. Esatto, adesso oggi abbiamo avuto un altro sgombero e quindi voglio dire, tutto questo un po' mi preoccupa, poi lasciando sempre l'apertura di scoprire sempre cose nuove e migliori di quelle che uno pensa, però sono un po' preoccupato, anche perché quando scrivo qualche cosa su Facebook scopro che c'ho, per quel poco che lo uso, scopro che ci sono decine di persone che io non conosco che mi insultano appena io scrivo questa cosa, e anche se è sicuramente più tranquillizzante del fatto che ti vengano i fascisti a casa a menarti, però nella sua versione microscopica, virtuale, micro virtuale, mi fa un po' lo stesso effetto, perché tu scrivi ma che stanno a fare a Roma, e ti arriva quello perché tu sei dalla parte del potere, a me che sono in esilio in Maremma da solo, la terra dei briganti, da 20 anni sono dalla parte del potere, perché ho detto questa cosa, non ho capito, cioè, quindi tutto questo mi ha fatto riflettere molto. Insieme a Arianna abbiamo e a Beatrice Tomassetti, che è una bravissima assistente regia e che lavora nel teatro da tanti anni, che è servita soprattutto a fare sì che io e Arianna non litigassimo durante la scrittura, per essendo marito e moglie, abbiamo costruito questo spettacolo. Lo proviamo il 30 novembre al Teatro Quarticciolo, dove sono stati molto gentili di prendere un'opera prima per provarla, e in un quartiere popolare, in un teatro che sta risorgendo in un quartiere popolare, con la gente del quartiere che ci va, e quindi un posto anche particolarmente bello secondo me, e quindi facciamo questa prova. È la prima volta che io scrivo una cosa per teatro, quindi chiaramente mi cago molto sotto, però sono convinto che quantomeno una discussione verrà fuori, sì. Se non veniamo menati all'uscita dai 5 Stelle. Ci sarà modo comunque di riparlarne, anche perché Radio Teatro sicuramente se ne occuperà. Torniamo a Carpenter, guarda, facciamo un salto indietro perché qui c'è Darkstar, una traccia di Darkstar, la mandiamo e poi finiamo in bellezza con 1996. Sì, non è una musica che avevo sempre non ascoltato con attenzione. Non mi potete non mettere Escape from New York, perché veramente fuori di testa. Morricone pure hai mozzompato. Pura febbre. Hai mozzompato Morricone. Vabbè, la prossima volta. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth in prime time. Got good reviews in the trades. Sorry to hear about the radiation leak on the ship. And real sorry to hear about the death of Commander Powell. There was a week of mourning here on Earth. We're all behind you guys. Keep up the good work, men. E questa era un assaggio di Darkstar, l'abbiamo scordato, l'abbiamo omesso. Ma mo ci organizziamo con Filippo, io ho già apparecchiato tutto, chiamato Booster, cose qua. Esatto, la radio prossimo giovedì la occupiamo un'oretta. Solo Dark Star. Devono venire con la forza pubblica, Pritch. Senti, ricordiamo, stavamo parlando del titolo dello spettacolo. No, perché ho detto che questo monologo si chiama Vota Kurt Cobain, che era il nome della lista inventata su Facebook. E, ecco, insomma, penso che abbia detto tutto. Certo. E arriviamo all'agognato 1997. Tagliamo fuori anche Ennio Morricone, però sì. È più importante 1999. Solo una parola su questa cosa di Ennio Morricone. Ennio Morricone, la cosa. Sì, perché siccome io ho avuto il piacere di lavorare molto spesso con un fonico, si chiama Fabio Patrignani, uno dei migliori italiani che ha lavorato suo padre e poi lui con Morricone sulla gran parte delle colonne sonore, c'è un po' di dritte del grande maestro, no? E pare che lui fosse stato particolarmente felice dell'incontro con Carpenter, perché a differenza di tutti gli altri registi con cui ha lavorato Morricone, Carpenter gli ha chiesto se poteva fare una musica per questo film, che è quello con più budget che lui ha mai girato, e Morricone gli ha detto: mi mandi le immagini che io le faccio le musiche. E Carpenter, giustamente da musicista eccezionale come stiamo mano a mano poi rendendoci conto, gli ha detto: no, lei mi mandi le musiche e io ci faccio le immagini sopra. Grazie. E Morricone questa cosa se la ricorda sempre e l'ha sempre considerato un grande complimento da parte di questo regista americano. Bene, bene. Senti Fede, allora facciamo Fuga in New York, però io non vorrei mettere il Main Theme. Ah, quale vuoi mettere? Dimmelo. Voglio mettere la seconda. La seconda, Escape, The Bank Robbery Soundtrack. The Bank Robbery. Quella. Questa qui, c'è la okay. Rapina dalla banca. La rapina. Questa ci salutiamo. Perché già solo così possiamo andare avanti, ragazzi. Ci sta bene, ci sta bene. Ma poi possiamo dare le coordinate per sostenere la radio o chiudiamo così? No. Perché sennò allora facciamo questa. Mettiamo Bank Robbery, do le coordinate mettiamo anche questa, la radio. I saluti e mettiamo anche l'inizio di Morricone e con quella chiudiamo. Vabbè. Va bene? Allora, 1997. We'll be right back. E questo era 1997. Era tagliata? No, finiva così. Ah. Eh sì, tu sei distratta, ti lamenti delle foto. Comunque da paura, mi lamento sì, pezzo, delle foto. Veramente da paura. E siamo alla chiusura. Allora, come detto, 1997 non poteva mancare, ma no, non abbiamo neanche tempo per parlarne. Filippo, i tuoi riferimenti per chi volesse saperne di più sulla tua attività web? Ma, ho effettivamente sia una pagina Facebook che si chiama Filippo Gatti Official, che non uso mai, che mi serve per ricevere dei messaggi importanti da persone che non mi conoscono, io non leggo e che ti offendono e che poi dopo mi odiano, per cui è una specie di è una pagina che è lì per produrre odio nei miei confronti, che ti minacciano di morte, dove ti minacciano di morte. Ho poi anche un'altra pagina normale, Filippo Gatti, e poi ho Instagram, mi piace Instagram, se mi cercate Filogat su Instagram, quello mi piace, ogni 2-3 mesi scatto una fotografia e la metto. E, allora, per sottoscrivere, numero di conto corrente postale, potete 6180. Fare anche una rapina in banca, una bank robbery, esatto, come suggeriva la traccia di poc'anzi. Sì, rubate ai poveri per dare ai poverissimi. Oppure potete attingere al vostro portafoglio e andare alla posta ed abbassati, che non 6180 4001, oppure sul sito internet della radio c'è Sostieni, la voce Sostieni sull'home page per le modalità telematiche. Ecco, se volete fare la rapina è più adatta in questo momento, perché comunque insomma di soldi ne abbiamo bisogno parecchi, quindi insomma la rapina secondo me è il modo per sottoscrivere alla radio più adatto in questo momento, ecco. Allora, ci salutiamo con John Carpenter insieme a Ennio Morricone. Filippo, grazie, a presto per parlare di teatro. Fantastico.